Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati alla trasmissione dei Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloon, che oggi prende in esame un altro dei grandi primatori della vicenda del Pioniere. Parliamo dello sceneggiatore Marcello Argilli, che è una figura che assieme a Rodari ha davvero illuminato tante storie comparse sul giornaletto della sinistra. Argilli nasce nel 26, dopo la laurea in giurisprudenza e diversi lavori e viaggi nella sua costruzione culturale giovanile, poi si dedica alla letteratura, prima come giornalista e poi a quella giovanile. Dunque un narratore, oltre che sceneggiatore di programmi televisivi come Gioca Gio. È autore anche di numerosi romanzi di successo, tra i quali Vacanze col padre, Marta quasi donna e Il mondo di Malù. Il suo libro più conosciuto invece è Ciao Andrea del 1971 e assieme appunto a Gianni Rodari redasse il famoso settimanale per ragazzi di Pioniere dell'Associazione Pioniere d'Italia. Questo leggendo Wikipedia, che poi ci specifica che Marcello Argilli scompare il 14 ottobre 2014. Marcello Argilli, che in qualche modo ha davvero creato delle novelle filastrocche al pari di Rodari di rara eleganza, di rara efficacia, come le novelle colorate che ci accompagneranno per questa trasmissione che farà il punto su Marcello Argilli, cominciando con questa, I colori dei sentimenti. Per gli americani il blu è il colore che esprime la tristezza più profonda. A noi italiani invece fa sognare, come dice anche una famosa canzone: nel blu dipinto di blu voleremmo felici. Per i musulmani il verde è un colore sacro e infatti le loro bandiere hanno questo colore. Per altri invece è quello della miseria. Il rosso per tanta gente è il colore della speranza e della libertà, ad altri mette paura. Le donne di molti paesi vestono di bianco il giorno che si sposano, considerandolo un colore di buon augurio. Per certi popoli asiatici invece il bianco è il colore del lutto. Interpretati in modi tanto diversi, un giorno i colori si risentirono. «Basta!» dissero, «è ora che la gente si metta d'accordo e assegna a ciascuno di noi un unico significato». Chiesta udienza, furono ricevuti da una commissione di sapienti, in rappresentanza degli uomini. La commissione, ascoltati i colori, convenne che avevano ragione. Provvederemo immediatamente, disse uno dei sapienti. Definiremo seduta stante il sentimento espresso da ognuno di voi. Il verde, mi pare chiaro, indicherà soltanto la speranza. Esimio collega, lo interruppe un altro, non dica sciocchezze, è la rabbia che è verde. Come osa affermare che io dico sciocchezze? Lei mi fa infuriare, già vedo rosso. Cosa c'entra la furia col rosso? Intervenne un altro. A sentire simili scempiaggini si arrossisce, ma per la vergogna. Che vergogna e vergogna, urlò un altro ancora. Il rosso è il colore del sol dell'avvenire. Signori, vi prego, disse uno. Ascoltare una discussione simile mette la tristezza più nera. Non offendete il nero, insorse un vegliardo incitrullito. Ai miei tempi il nero. Neanche lo fecero finire. Taccia lei, non rievochi il più grigio periodo della nostra storia. La discussione si animava sempre più. Lasciamo stare la politica, gridò un altro. Il grigio è il colore della distinzione. Guardate infatti il mio vestito. Non vi fa diventare gialli dall'invidia? E l'invidia, secondo lei, sarebbe gialla. Non dica eresie. Zitto lei che porta iella come il viola. Quei sapienti ormai litigavano da venire alle mani. È chiaro, dissero allora i colori, non si metteranno mai d'accordo. E se ne andarono. Così i sentimenti, ogni persona continuò a vestirli del colore che voleva. E in fondo fu meglio, perché di libertà conviene averne il più possibile, anche in fatto di colori. Yellow is the color of my true love's hair and rise in the morning. When we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue is the color of the sky. Ma chi era Marcello Argelli? Ce lo ricorda Ermano Detti, che ha ben conosciuto questo sceneggiatore e scrittore per ragazzi, perché è stato suo editore, in particolare nella seconda parte della sua vicenda artistica. Ascoltiamo le sue parole. Marcello Argelli, diciamo che è stato uno dei più grandi scrittori del Novecento per ragazzi. È stato difatti collaboratore con Gianni Rodari. Lui comincia a scrivere proprio su invito di Gianni Rodari sulle pagine del Pioniere degli anni 50-60. Divenne collaboratore di Rodari, ne fu amico per tutta la vita. Marcello Argelli e Gianni Rodari si sono formati insieme a questa grande scuola che fu il Pioniere, e poi per tutti gli anni 70-80 hanno collaborato con le stesse case editrici, hanno pubblicato con Inaudi, hanno pubblicato insieme vari. Lui è stato anche biografo di Gianni Rodari, esiste una sua biografia pubblicata da Inaudi. I romanzi di Argelli sono molto belli, i romanzi, io li segnalo, che tra l'altro li ho pubblicati io nella mia piccola casa editrice che si chiama Altre Verde. Sono romanzi di carattere sociale, generalmente però i romanzi si rivolgono agli adolescenti, non si rivolgono ai bambini. Ciao Andrea, per esempio, è un ragazzo che compare e scompare. Un giornalista, probabilmente a lui stesso, a Marcello stesso, compare e scompare, non si sa chi sia né dove venga, però lui, che non ha figli, Marcello, accetta questo ragazzo per quello che è, va e viene, quando viene lo accoglie, quando se ne va non dice niente. E questo è un libro molto bello, molto poetico, si chiama C'è Andrea ed è uno dei più belli che sia mai stato scritto da Marcello. Poi io segnalerei l'altro, che è Vacanze col padre, la storia di un bambino che ama moltissimo il suo papà, per lui il papà è un mito, e lo porta a fare gite, lo porta in Jugoslavia, lo porta in Marocco, fa vedere il mondo, e poi in realtà scopre che questo papà così... Lui se lo immaginava quasi un supereroe, è una persona umana come tutti gli altri, e rimane un po' deluso fin quando poi c'è un finale molto molto bello. Poi c'è il terzo romanzo, che è Marta quasi donna, che invece è la storia di una donna, di una ragazza, che adolescente, che sta diventando donna. Sono tre romanzi che sono bellissimi. Ha scritto anche sceneggiature per cartoni animati, Argelli. Sì, guardi, ha scritto sceneggiature per cartoni animati e ha fatto i fotoromanzi. Addirittura. Lui negli anni 60 con Gabriella Parca scriveva dei fotoromanzi e ha lavorato per la televisione, ragazzi, è stato un grande. Leo è stato pubblicato a Napoli da Liguori ed è un romanzo di un ragazzo che va a New York e scopre, mentre si trova, viaggia praticamente, però a New York scopre la sua omosessualità e allora ha dei problemi, non riesce a confessarla nemmeno a se stesso, ed è bellissimo un romanzo, credo che sia stato il primo romanzo che affronta appunto questo problema. Fiaba dei colori sbagliati. C'era una volta un gatto verde che in un giardino di alberi blu miagolava verso una finestra con le imposte viola. Le imposte si aprirono e si affacciò una bella ragazza dal viso turchino. Hai fame? Disse la ragazza. Allora mangia, bel gatto verde. E gli gettò un grosso pezzo di polmone giallo. Gli era infatti molto affezionata e ogni giorno gli dava qualcosa da mangiare. Ma quel giorno, nascosta tra l'erba nera del giardino, c'era anche una gatta azzurra. Appena il gatto verde la vide, pensò: che bella gattina azzurra, e le fece miamau, mau, che significa hai fame? Favorisci. Subito la gatta azzurra accorse e si divisero il polmone giallo. Finito di mangiare, il gatto verde e la gatta azzurra cominciarono ad annusarsi e a dirsi maramao. che è il verso usato dai gatti per farsi la corte. Affacciata alla finestra dalle imposte viola, la ragazza turchina li guardava compiaciuta quando passò un giovanotto tutto avaro, con un cane dorato al guinzaglio. Siccome il cane dorato cominciò ad abbaiare contro i due gatti che amoreggiavano, «Perché li disturbi?» disse la ragazza turchina. «Non vedi che sono innamorati?» Subito il giovane avana tirò il guinzaglio del cane dorato e lo fece star zitto. Poi, col naso all'aria, cominciò a parlare con la ragazza turchina. I gatti, intanto, sempre più innamorati, miagolavano più forte. Allora il cane dorato li rimproverò. «Perché disturbate il mio padrone e questa signorina azzurra che parla con lui? Non vedete che si stanno innamorando?» Subito i due gatti si allontanarono nell'erba nera e lasciarono tranquilli il giovanotto avaro e la ragazza turchina. Forse i colori di questa fiaba sono sbagliati, ma la storia è vera. Ci sono momenti magici nella vicenda delle persone, sicuramente per Marcello Argilli questo fu quando incontrò Gianni Rodari, come ci racconta lui in una vecchia intervista che ci legge Morena Moretti. Ero ancora studente e volevo studiare psicanalisi, ma non era una passeggiata, ci voleva la laurea di 6 anni in medicina e poi la specializzazione. Mi piaceva scrivere e pensavo al giornalismo, ma mia madre ci teneva che prendessi in fretta una laurea. Allora mi iscrissi a legge e, presa la laurea, accontentata mia madre, cominciai a collaborare con giornali e riviste. Inizialmente lavoravo con Gabriella Parca, giornalista e scrittrice famosa, divenuta più famosa nel 1959 con il suo libro Le italiane si confessano. Poi incontrai Gianni Rodari. Lo incontrai in un ristorante a Roma e al termine della serata mi propose di scrivere per Il Pioniere, il noto giornalino che lui dirigeva. Gli dissi che non avevo mai scritto per bambini, ma lui rispose che gli sembrava, da come parlavo, che fossi adatto. Gli promisi che ci avrei provato. Cominciai a scrivere filastrocche e brevi storie. Ci incontrava a casa sua e gliele consegnai. Lui leggeva in silenzio, emettendo di tanto in tanto delle esclamazioni. Io non capivo se erano di approvazione o no. A un certo punto disse: «Ti pubblico tutto». E io rimasi stupito. Fu quel giorno a casa di Rodari che mi resi conto che mi veniva naturale scrivere per i bambini. Difatti fino ad allora avevo scritto per adulti, novelle, articoli di terza pagina, ma sempre per adulti. Rodari determinò la mia scelta. Dopo 6 mesi Il Pioniere lo scrivevo in buona parte io. Quando Rodari morì scrissi un libro su di lui, era un dovere. Certo, Il Pioniere era un settimanale per ragazzi laico, anche se poi eravamo tutti comunisti. Non era venduto in edicola, ma veniva diffuso dal Partito Comunista e dall'UDI. Le nostre riunioni di redazione si concludevano sempre con una raccomandazione di Gianni: tendere alla creazione di un giornalino che si ispirasse alla realizzazione della Costituzione e che fosse il più possibile leggero. Difatti c'erano fumetti, fiabe, indicazioni per la scuola. Era insomma un giornalino completo e uscì per 10-12 anni. Inizialmente Rodari aveva lanciato Cipollino, poi io diedi vita a Chiodino, che ebbe un grande successo. I colori della pelle. Si racconta che nell'antichità più antica tutti gli uomini erano bianchi. I colori si erano divertiti a colorare ogni cosa: le montagne, le piante, gli animali, il cielo. Ma si erano dimenticati di colorare proprio gli esseri più importanti che esistevano sulla terra, gli uomini. Quando se ne accorsero, decisero subito di rimediare e si riunirono per stabilire a chi sarebbe spettato farlo. I concorrenti erano tanti. «Spetta a me!» gridò il viola. «Sono il colore più distinto!» «Perché tu? Gli uomini saranno molto più belli verdi!» ribatté il verde. «No, sono io, il celeste, il colore più adatto!» Alla fine di una discussione burrascosa si passò ai voti e 3 ottennero lo stesso numero di preferenze: il nero, il giallo e l'arancione. I 3 colori prescelti vennero a un accordo. Il nero avrebbe colorato gli uomini che vivevano in Africa, il giallo quelli che vivevano in Asia e l'arancione quelli che vivevano in America. Subito partirono per mettersi al lavoro, ma a causa dei violenti litigi era avvenuta un'altra dimenticanza. I colori si erano scordati degli uomini che vivevano in Europa. Così gli europei restarono bianchi e figuratevi la loro rabbia quando cominciarono a viaggiare e si accorsero che in Africa, in Asia, in America viveva gente con la pelle nera, gialla o arancione. Forse proprio per la vergogna che i colori si fossero dimenticati di loro, presero a guardare di malocchio e addirittura a disprezzare chi aveva la pelle colorata. Questo durò per vari secoli. Ai nostri giorni però le cose sono abbastanza cambiate. Molti bianchi, infatti, considerano oggi la pelle dei negri addirittura più bella della loro, tant'è vero che d'estate prendono il sole per ore e ore per diventare neri. Ma per quanto si sforzino, si vede subito che sono dei bianchi soltanto abbronzati. Hey, hey, hey, you deem me Wilson Pickett. Hey, hey, hey, you deem me to James Brown. Questa voce dove la trovate? Signor King, signor Charles, signor Brown. Io faccio tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai. Penso che sia soltanto per il mio color che non va. Ecco perché io vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera. Ehi, hey, dimmi tu signor Paulus, ehi, hey, dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico Nino, tu non ci dovresti pensare, ma non c'è niente da fare per dimenticare questo maledetto colore di pelle che mi brucia un po'. Certo, in questa trasmissione parleremo tanto e ancora del pioniere e dei suoi protagonisti, ma cerchiamo anche di dare uno sguardo ai concorrenti del pioniere, agli altri giornalisti che si contendevano in edicola il favore dei ragazzi. E cominciamo dal gigante, il vittorioso, quello di Jacovitti. Cominciamo dunque a parlare del Vittorioso, di questo giornale che ha radici profonde e che in qualche modo rappresenta sicuramente l'anima della Chiesa, in particolare l'Azione Cattolica, ben presente anche come una sorta di diarchia dell'educazione giovanile già al tempo del fascismo. Ce ne parla Ernesto Preziosi, che tra l'altro è l'autore di Il Vittorioso, storia di un settimanale per ragazzi 1937-1966. Quando nasce il Vittorioso nel 1937, nasce esattamente per rivolgersi a un pubblico popolare di ragazzi. C'è dietro non una casa editrice, o meglio c'è anche una casa editrice, ma c'è soprattutto un'associazione che è un'associazione popolare, che è l'Azione Cattolica, che ha migliaia di aderenti. Siamo nel 1937, c'è già stato il concordato del 1929. L'Azione Cattolica è l'unica associazione organizzata che ha possibilità di vivere durante il fascismo. Sono stati sciolti i sindacati, sono stati sciolti i partiti, ovviamente, sono state sciolte anche le associazioni di categoria sindacale, ricreative, sportive, compreso quelle cattoliche, no? Rimane l'Azione Cattolica perché Pio XI insistentemente mette come condizione che una regola, una norma del concordato renda possibile l'Azione Cattolica. Vuole contendere al regime la formazione della gioventù. La Chiesa ha sempre una sua visione complessiva e di esperienza e sa che i regimi, per essere regimi, puntano ad educare gli adulti di domani, puntano ad educare i giovani. Tutta l'organizzazione del regime nei primi anni mobilita forze, energie per formare i ragazzi, per irregimentarli in categorie, i balilla, no? Le giovani italiane, tutte le categorie. E allora l'Azione Cattolica è per la Chiesa la possibilità di non farsi sottrarre le giovani generazioni, ma di poter avere addirittura quasi un privilegio, cioè una privativa di educazione. Questo comporterà anche degli scontri. Nel 1931 si scontrano le organizzazioni giovanili cattoliche con quelle del regime, ma con scontri relativi, non però c'è un provvedimento di pubblica sicurezza che chiude tutte le sedi dell'Azione Cattolica. Però questo vi dice che c'è un'unica associazione grande, a parte quella del regime, che è l'Azione Cattolica. Allora, il fatto che nasca un giornale dentro quel contesto è una garanzia di popolarità. Questo giornale raggiunge fin dall'inizio centinaia di migliaia di copie. E mette insieme un'altra caratteristica, quella di puntare alla mobilitazione dei ragazzi per la diffusione. Non è il supplemento di un altro giornale, non si affida alle edicole, non si affida appena all'abbonamento, che sarebbe dal punto di vista economico molto difficile. Si affida ad un club di ragazzi, no? Organizza i buon stampisti, coloro che sono disposti a portare questo giornale in maniera militante, perché l'obiettivo, dichiaratamente da parte della gioventù di Azione Cattolica, è di andare oltre i ragazzi delle parrocchie, di parlare agli altri. Quindi va venduto nelle scuole, va venduto nelle strade, si stabilisce un sistema di concorsi, una forma premiale per chi vende più copie, guadagna punti, si può pagare la vacanza estiva, vince premi prestigiosi, tra cui viene messo in palio nei primi anni la bicicletta di Gino Bartali, con cui vince i giri. Ogni anno c'è come primo premio la bicicletta di Gino Bartali, che viene consegnata direttamente da lui. Gino Bartali apparteneva alla gioventù di Azione Cattolica, quindi fa questo dono. Io anzi inizio il libro raccontando il viaggio di nozze di Gino Bartali, che arrivando a Roma va a visitare con la moglie, la porta a visitare il luogo dove si stampa e dove si impagina il Vittorioso. Dove è nato non si sa, una casa non ce l'ha, gira il mondo col cavallo e 200 rivoltelle per cacciare i banditi. E da Remo Germani il suo Cocco Bill e tutto anni 60, veniamo a qualche opinione su questa vicenda, questa avventura del Vittorioso, sempre all'interno naturalmente del mondo dell'Azione Cattolica. Cominciamo con lo storico Giorgio Vecchio, per sentire poi il parere di Marco Tarquinio, che è dell'Avanti. Il Vittorioso è stato il tentativo di proporre un fumetto fatto all'italiana, quindi da artisti italiani. Quando il Vittorioso nasce nel 1937 è appena finita la guerra d'Etiopia, ci stiamo avvicinando alla seconda guerra mondiale. Quando il Vittorioso scompare siamo alla fine del 66, quindi è già passato anche il boom economico e siamo nel pieno ormai della contestazione, anche se sboccerà poi nel 68. Quindi si passa 30 anni intensissimi della storia italiana. Ma che Italia era quella raccontata dal Vittorioso? Era un'Italia un po' speciale, quella in cui questo gruppo straordinario di giovani si mise al lavoro. Era un'Italia che usciva dalla guerra, quindi un'Italia che aveva perso, pagato un prezzo in umanità, distrutta anche negli anni precedenti. Però era anche un'Italia che seppe puntare sui giovani. Questa è un'altra grande lezione per l'oggi, io credo. Oh, tu prendi male! E torniamo al critico Ernesto Preziosi per analizzare un po' le vicende del Vittorioso nel dopoguerra. Il giornale, anche per un motivo storico importante, cioè che tutti i primi dirigenti della RAI e soprattutto della TV dei ragazzi vengono dalla gioventù cattolica, perché sono in qualche modo frutto della diaspora che segue le dimissioni di un presidente nazionale, Mario Rossi, a metà degli anni 50, queste dimissioni traumatiche, perché in polemica con un indirizzo anche politico, fanno sì che il gruppo dirigente di grande qualità si scomponga, si dimetta e cerchi lavoro. E attraverso un dirigente della RAI che veniva dalla gioventù cattolica, in gran parte queste persone andranno a lavorare in RAI. Erano delle persone note, Emanuele Milano, Umberto Eco, erano persone note, che lavoravano dentro queste testate giornalistiche dell'Azione Cattolica. E allora c'è un'interessante lettura, non solo una rubrica che guida i programmi, che dà consigli e letture critiche, ma c'è il non timore dello strumento televisivo con l'adozione di alcuni personaggi beniamini della televisione. Mago Zurlì, perché è lo Zecchino d'Oro. Molti di voi si ricorderanno Angelo Lombardi, l'amico degli animali, no? Il solito coro avanti, su di corsa, presto, eccolo qua. Oggi abbiamo recuperato anche il bambino che era malato, vieni qua, vieni, Carmelo, ci hai dato da pensare, sai, col 37, quanto febbre. Adesso vediamo Andalù, che cosa ci vuol portare, Andalù? Andalù, vediamo un po' che cosa mi porti. Vediamo un po', questa è una rosetta, questo è un interessante esemplare di pipistrello, volpe volante. D'ora in poi, bye bye, su facciano cocco, stai lì che stai. Ultima voce su questa carrellata sul Vittorioso, e certamente non poteva mancare, quella di Iacovitti, il grande maestro che in qualche modo è l'emblema di questa vicenda del giornaletto dell'Azione Cattolica. La faccenda degli altri oggetti, ossia gli ossi, i vermi, i pettini, le matite, sono tutte cose che alcuni psicologi o umoristi come Metz, Del Buono, anche lo stesso Eco, hanno detto che aveva riferimento a cose sessuali. Io invece non ci ho neanche lontanamente pensato a questo, ma è soltanto una scusa per me, era, perché quando io faccio una tavola non so mai come andare avanti, ossia comincio una storia ma non so come va. Faccio la prima vignetta, anziché stare con la matita così per pensare a fare l'altra, riempio, ho cominciato molti anni fa a riempire gli spazi vuoti con qualche cosa, però con qualcosa di estraneo al soggetto della vignetta, quindi il dado, il pesce, il verme, l'osso, poi il salame. Il salame mi è piaciuto mettere parecchie volte, fino a che è uscito fuori una ditta famosa di salame che voleva farmi fare un carosello, però di persona dovevo fare io il personaggio. Ho rifiutato perché mi vergogno in queste cose televisive come un ladro. Delle prime storie che ho fatto nel 39 con il Vittorioso, un picco pente che palle, eccetera, mi firmavo con IB, ossia Iacovitti Benito, perché io ho questo nome qua, ma non perché io ritengo che questo nome sia più vicino al Juarez, il rivoluzionario messicano, perché il padre di Mussolini gli ha messo quel nome perché era socialista, e anche Mussolini era socialista all'inizio, poi era cambiato. Trasbordato. Invece mio padre mi ha messo questo nome perché quando sono nato io a Termoli, in provincia di Campobasso, era nata la sezione, lui era un fascista e mi ha messo il nome questo. Però mi chiamano Franco perché il mio nonno si chiamava Franco, il secondo nome è Franco. Io per l'appunto ho quattro nomi, mi chiamo Franco, Benito, Giuseppe e Antonio, nomi di quattro grandi dittatori, perché Giuseppe, Baffone, Benito, Franco. Spagna, e Antonio de Rivera, quello del Portogallo. Quindi c'ho nomi giusti per essere un coniglio. No, per essere un liberale estremista di centro. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche e Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il pioniere, un mondo dentro a un balun. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà?